Capitolo 5. Lo zio. C'era un altro parente della famiglia, oltre alla vecchia signora, le cui visite mi recavano un gran fastidio. Era lo zio Robson, fratello della signora Bloomfield, un tipo grande, vanitoso, coi capelli neri e con la carnagione gialla di sua sorella, con un naso che aveva l'aria di disprezzare la terra, con degli occhietti grigi, spesso semichiusi, e con una mescolanza di stupidità sorniona e di disprezzo affettato per tutto quello che lo circondava. Era un uomo grasso e di solida struttura, ma che aveva trovato il modo di comprimere il petto in uno spazio notevolmente piccolo. E questo, unito alla rigidezza poco naturale delle sue forme, palesava che il fiero Robson, il denigratore del sesso femminile, non disdegnava di adoperare il busto. Raramente si degnava di notarmi. E quando lo faceva era con una certa insolenza di tono e di maniere che rivelava che non era un vero signore, benché lo scopo fosse di raggiungere l'effetto contrario. Ma mi seccava il suo arrivo, non tanto per questa ragione quanto per il danno che recava ai bambini, incoraggiandoli nelle cattive inclinazioni e distruggendo in pochi momenti quel poco di buono che ero riuscita a ottenere con mesi di fatica. Di rado condiscendeva a occuparsi di Fanny e di Enrichetta, mentre Marianne era un po' la sua preferita. Incoraggiava di continuo la sua tendenza all'affettazione, che io avevo fatto di tutto per reprimere, parlandole del suo bel visino e montandole la testa sulla sua bellezza personale, che io le avevo insegnato a giudicare come polvere a paragone della cultura, dello spirito e della raffinatezza delle maniere. Non vidi mai bambina più sensibile di quella alle adulazioni. Tutte le cattive tendenze che avevano lei e suo fratello, lo zio le incoraggiava prendendole in burletta, se non addirittura lodandole. La gente non sa il male che fa i ragazzi con il ridere dei loro difetti e con il prendere in giro cose che i veri amici hanno loro insegnato a detestare. Il signor Robson, benché non fosse un ubriacone vero e proprio, beveva per abitudine una buona dose di vino e sorbiva di tanto in tanto con piacere un bicchiere di acqua e grappa. Insegnava a suo nipote a fare del suo meglio e a credere che più vino e spirito ingurgitava e più gli fossero piaciuti, più avrebbe mostrato il suo spirito maschio e ardimentoso e la sua superiorità sulle sorelle. Il signor Bloomfield non poteva dir nulla in contrario perché la sua bibita preferita era acqua e gin, di cui ingurgitava tutti i giorni una quantità notevole a forza di bicchierini. Ciò che spiegava, secondo me, la sua pelle opaca e il suo carattere stizzoso. Il signor Robson incoraggiava allo stesso modo la tendenza di Tom a perseguitare le creature inferiori, sia con le parole che con l'esempio, poiché andava spesso a caccia per la proprietà del cognato, conduceva con sé i suoi cani preferiti, ma li trattava così brutalmente che, benché povera, avrei pagato ogni giorno una sovrana pur di vederli mordere, a patto che avessero potuto farlo impunemente. Spesse volte, se era in una giornata buona, andava con i bambini in cerca di nidi, cosa che mi irritava e seccava moltissimo, poiché con reiterati sforzi mi ero lusingata di aver dimostrato il male di questa abitudine e avevo sperato di portarli col tempo a un sentimento generale di giustizia e di umanità. Ma 10 minuti di caccia ai nidi con lo zio Robson, oppure una sua risata al racconto di qualche loro precedente crudeltà, bastavano immediatamente a distruggere il risultato di tutta la mia elaborata serie di ragionamenti ed esortazioni. Per fortuna, però, durante quella primavera essi avevano preso soltanto nidi vuoti o uova, essendo troppo impazienti per aspettare che le uova fossero dischiuse, eccetto una sola volta. Quella volta Tom, che era stato con lo zio nella piantagione vicina, corse in giardino tutto contento con una nidiata di uccellini in plumi fra le mani. Marianne e Fanny, che erano appena uscite con me, accorsero per ammirare la sua preda e per pregarlo che desse un uccello per ciascuna. «No, neppure uno!» esclamò Tom. «Sono tutti miei. Lo zio Robson li ha dati a me. 1, 2, 3, 4, 5. Non li toccherete. No, neppure uno, a nessun costo!» continuò con esultanza, posando il nido per terra e mettendosi in piedi a gambe aperte, le mani nelle tasche dei pantaloni, il busto piegato in avanti e il volto contraffatto da una smorfia di contentezza. «Ma vedrete come li concerò, parola d'onore che li voglio schiacciare. Vedrete se non lo farò subito, per Dio, ma con questo nido mi prenderò un grande spasso.» «Ma Tom», dissi io, «non ti permetterò di tormentare quegli uccelli. O devono essere uccisi immediatamente o riportati al posto dove li hai presi, così che gli uccelli più grandi possano continuare a nutrirli. Ma lei, signorina, non sa dov'è, solamente io e lo zio Robson lo sappiamo. Se non me lo dici, Benché mi faccia orrore, li ucciderò io stessa. Non oserà, non oserà neppure toccarli perché sa che il babbo e la mamma e lo zio Robson si arrabbierebbero. Ah, oh, ecco che la tengo in trappola, signorina. Farò quello che mi parrà giusto in questo caso, senza consultare nessuno. Se il tuo babbo e la tua mamma per caso non la proveranno, mi spiace per loro, ma le opinioni del tuo zio Robson proprio non mi fanno né caldo né freddo. Così dicendo, spinta dal senso del dovere, col pericolo di commettere un atto che mi ripugnava e di incorrere nello sdegno dei miei padroni, presi una grossa pietra piatta e poi, avendo ancora una volta inutilmente cercato di convincere il piccolo tiranno a riportare al loro nido gli uccelli, gli chiesi che cosa intendeva farne. Con gioia diabolica enumerò una fila di tormenti e, mentre era occupato nell'esposizione, lasciai cadere la pietra sopra le sue future vittime e le schiacciai. A questo oltraggio temerario si levarono strilli e terribili proteste. Lo zio Robson stava per sopraggiungere proprio in quel momento col fucile e si era fermato a tirare un calcio al cane. Tom gli volò incontro, giurando che avrebbe fatto prendere a calci me invece di Giunone. Il signor Robson si appoggiò al fucile e rise a più non posso per l'impeto di rabbia del nipote e le parolacce e gli improperi che mi scagliava. «Ah, bene, sei un bel tipo!» esclamò alla fine, riprendendo l'arma e avviandosi verso casa. «Accidenti se questo ragazzo non ha del coraggio! Che sia maledetto se ho mai visto un birbantello più in gamba di questo! Si è già liberato dal governo delle gonnelle, eh? Per Dio! Sfida madre, nonna, governante, tutte! Che importa, Tom! Domani ti troverò un'altra nidiata!» «Se la troverà, signor Robson, ucciderò anche quella», dissi. Rispose. E avendomi onorato di uno sguardo altero, che contrariamente alla sua aspettativa sostenni senza titubanza, si allontanò con aria di supremo disprezzo ed entrò in casa. Tom lo seguì per dire tutto a sua madre. Non era sua abitudine parlar molto, qualunque fosse l'argomento, ma constatammo che il suo aspetto e il suo comportamento erano doppiamente corrucciati e glaciali. Dopo qualche osservazione sul tempo, disse: «Sono spiacente, signorina Gray, che lei creda necessario intervenire nei divertimenti del signorino Bloomfield. Era proprio desolato per la distruzione che le ha fatto degli uccelli.» «Quando i divertimenti del signorino Bloomfield consistono nel tormentare delle creature sensibili», risposi, «credo sia mio dovere intervenire.» «Mi pare che abbia dimenticato», disse ella con calma, «che le creature furono tutte create per nostra utilità.» Ritenevo che quella teoria si prestasse a qualche dubbio, ma risposi semplicemente: «Se è così, non abbiamo alcun diritto di tormentarli per divertimento.» «Credo», disse lei, «che il divertimento di un bambino non possa essere messo sulla bilancia alla pari del benessere di un essere senza anima.» «Ma proprio per il bene del bambino non si dovrebbe incoraggiarlo in simili divertimenti», osservai con tutta l'umiltà che potei per farmi perdonare l'ostinazione insolita. «Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia.» «Oh, certo, ma questo si riferisce alla nostra condotta fra uomini.» «L'uomo misericordioso mostra misericordia verso le bestie», osai aggiungere. «Credo che lei non abbia mostrato molta misericordia», rispose con un risolino breve e acido, «uccidendo le povere bestie in quel modo crudele e gettando quel caro bambino alla disperazione per puro capriccio.» Giudicai prudente non aggiungere altro. Era la discussione più prossima a un bisticcio che avessi mai avuto con la signora Bloomfield, e nel mio primo anno non avevo mai scambiato con lei in una sola volta un così gran numero di parole. Ma il signor Robson e la vecchia signora Bloomfield non erano i soli ospiti il cui arrivo a Wildwood House mi infastidiva. Più o meno ogni visitatore mi infastidiva, non tanto perché mi trascurava, benché trovassi strano e spiacevole questo modo di comportarsi, ma perché mi era impossibile allontanare da essi i miei allievi. Come sempre mi veniva raccomandato: Tom doveva discorrere con loro e Marianna doveva mettersi in vista. Né l'uno né l'altro avevano la più lontana idea di che cosa fosse il rossore o perfino la comune modestia. Interrompevano bruscamente la conversazione dei più anziani, disturbavano con domande impertinenti, si appendevano rodamente al collo, si arrampicavano non sollecitati sulle ginocchia, si attaccavano alle spalle, frugavano nelle tasche dei signori e delle signore, spiegazzando i vestiti, scompigliando le pettinature, sciupando i colletti e chiedendo inopportunamente i gioielli. La signora Bloomfield era seccata e contrariata di questo, ma non faceva nulla per impedirlo. Aspettava che intervenissi io. Ma come potevo quando gli ospiti, con i loro bei vestiti e con le loro facce nuove, facevano moine e complimenti ai bambini per compiacere i genitori? Come potevo io, con i miei abiti comuni e il mio viso di tutti i giorni e le parole oneste, trascinarli via? Ci mettevo tutta la mia energia. Col tentare di divertirli cercavo di attirarli vicino a me, con quel po' di autorità di cui ero in possesso e con la severità di cui osavo servirmi, cercavo di impedire che tormentassero gli ospiti e, rimproverando i loro modi scorretti, li mortificavo perché non li ripetessero. Ma quelli non sapevano che cosa fosse la mortificazione. Si infischiavano dell'autorità che non fosse retta dal terrore. E quanto a prenderli con le buone, o non avevano cuore, o anche se ne avevano era così ben custodito e nascosto che con tutti i miei sforzi non ero ancora riuscita a scovarlo. Ma ben presto le mie prove in questo campo ebbero termine, prima di quello che mi aspettassi e che sperassi. Una bella sera, verso la fine di maggio, mentre mi rallegravo nel vedersi avvicinare le vacanze e mi congratulavo con me stessa di aver ottenuto qualche progresso nei miei allievi, perché almeno ero riuscita a ficcare qualcosa nelle loro teste e a renderli un briciolino più ragionevoli, così che facessero i loro compiti nel tempo dedicato allo studio, invece che mettere per tutto il giorno me e se stessi alla tortura, la signora Bloomfield mi mandò a chiamare e mi disse, senza scomporsi, che dopo le vacanze dell'estate non avrebbe avuto più bisogno dei miei servizi. Mi assicurava che il mio carattere e la mia condotta erano ineccepibili, ma che i bambini avevano fatto così pochi progressi dal mio arrivo che il signor Bloomfield e lei sentivano il dovere di cercare qualche altro sistema di istruzione. Benché fossero per intelligenza superiori alla maggior parte dei bambini della loro età, diceva la madre, nel sapere erano senz'altro inferiori, le loro maniere grossolane e la natura indisciplinata, e attribuiva questo a mancanza di fermezza, cura e perseveranza da parte mia. Fermezza instancabile, diligenza, perseveranza, cure continue erano proprio le qualità di cui mi ero segretamente inorgoglita e con le quali avevo sperato di superare col tempo tutte le difficoltà e ottenere alla fine la vittoria. Volevo dire qualcosa a mia giustificazione, ma sul punto di parlare mi mancò la voce e piuttosto che manifestare dell'emozione o lasciar scorrere le lacrime che già mi erano salite agli occhi, preferii rimanere in silenzio e sopportare tutto come una colpevole convinta della propria colpa. Così ero licenziata e così dovevo rivedere la mia casa. Ahimè, che cosa avrebbero pensato i miei parenti? Incapace, dopo tutte le mie vanterie, di mantenere un posto di governante anche solo per un anno presso tre bambinetti, la cui madre, a detta di mia zia, era una signora molto per bene. Dopo essere stata posta sulla bilancia e trovata leggera alla bisogna, potevo sperare che mi permettessero di cercare un altro posto. Questo pensiero mi preoccupava perché, benché tormentata, battuta e delusa, e benché avessi fortemente imparato ad amare e apprezzare casa mia, non ero ancora stanca di avventure né disposta a rinunciare ai miei tentativi. Sapevo che non tutti i genitori assomigliavano ai signori Bloomfield ed ero certa che non tutti i bambini assomigliassero ai loro figli. La prossima famiglia doveva essere diversa e qualunque cambiamento sarebbe stato per il meglio. Ero stata provata dall'avversità e istruita dalle esperienze e bruciavo dal desiderio di riscattare il mio onore perduto dinanzi agli occhi di coloro che mi erano più cari del mondo intero. Capitolo 6. Di nuovo alla parrocchia. Capitolo 6. Di nuovo alla parrocchia. Per alcuni mesi rimasi beatamente a casa a godere libertà, pace e affetto sincero in mezzo alle persone tanto desiderate. Mi rimisi agli studi per recuperare quello che avevo perduto durante la mia permanenza a Wellwood House e per preparare una nuova provvista per l'avvenire. La salute di mio padre era ancora molto cagionevole, ma non stava fisicamente peggio di come l'avevo visto l'ultima volta ed ero contenta di poterlo rallegrare col mio ritorno e distrarlo col cantare le sue canzoni preferite. Nessuno mostrò soddisfazione per il mio insuccesso o mi disse che avrei fatto meglio a seguire il suo consiglio e rimanermene tranquilla a casa. Furono tutti lieti che fossi ritornata. Si mostrarono più che mai sollecite per farmi dimenticare le sofferenze subite. Ma nessuno volle toccare uno scellino di quello che avevo guadagnato, con tanto gusto e risparmiato nella speranza di dividerlo con loro. A forza di tirar da una parte e risparmiare dall'altra, i nostri debiti erano già quasi pagati. Maria aveva riscosso successo con i suoi disegni, ma nostro padre aveva insistito perché anch'ella tenesse per sé tutto il profitto della sua attività. Tutto quello che potevamo risparmiare sul denaro destinato al nostro modesto guardarobe e alle nostre piccole spese accessorie ce lo faceva depositare alla cassa di risparmio, dicendoci che non sapevamo che purtroppo ben presto non avremmo avuto altra fonte su cui contare. Perché sentiva che non sarebbe rimasto ancora molto con noi, e Dio solo sapeva che cosa sarebbe avvenuto di nostra madre e di noi dopo che lui se ne fosse andato. Caro babbo, se si fosse tormentato meno sulle miserie che ci avrebbero colpito nel caso in cui fosse morto, sono certa che il tremendo evento non sarebbe arrivato tanto presto. Mia madre lo distoglieva sempre, come poteva, dal pensarci. Oh, Riccardo, esclamò un giorno, se tu scacciassi questi pensieri tristi dalla mente, vivresti a lungo come noi, almeno tanto da vedere le ragazze sposate e vederti nonno felice con una serena vecchia signora per compagna. Mia madre rideva, e anche mio padre, ma il suo riso finiva subito in un sospiro. Sposate. Povere figliole, senza un soldo, diceva. Mi chiedo chi le prenderà. Ebbene, si troverà chi sarà contento di prenderle. Non ero senza un soldo quando tu prendesti me, e avevi almeno l'aria di essere molto soddisfatto del tuo acquisto. Ma qui non si tratta se si sposeranno o no. Possono trovare mille modi onesti per guadagnarsi la vita. E mi meraviglio, Riccardo, che ti tormenti sulla povertà che ci colpirà se tu morirai, come se fosse qualcosa di paragonabile alla sventura di perderti, un dolore, sai bene, che supererebbe tutti gli altri, perciò dovresti fare di tutto per preservarcene, per mantenere il corpo sano, non c'è nulla come il cuor contento. Lo so, Alice, che è male angosciarsi come faccio io, ma non posso farne a meno, devi avere pazienza. Non voglio avere pazienza se posso cambiarti, rispose mia madre. Ma la bruschezza delle sue parole era annientata dalla tenera affettuosità della voce e dal sorriso, che faceva di nuovo sorridere mio padre, con minor tristezza e con meno fugacità del solito. Mamma, le dissi, non appena ebbi l'occasione di parlarle da sola, il mio denaro è ben poca cosa e non può durare a lungo. Se potessi aumentarlo, la preoccupazione del babbo, almeno su questo punto, diminuirebbe. Non posso disegnare come fa Maria e quindi il miglior partito per me è cercare un altro posto. E così vorresti provare ancora, Agnes? Ho deciso. Mia cara, avevo creduto che ne avessi abbastanza. Non sono tutti, dissi, come il signore e la signora Bloomfield. Ce n'è di peggiori, interruppe mia madre. Oh, ma non credo molti, risposi. E certo, non tutti i bambini sono come i loro, perché io e Maria non eravamo così. Noi facevamo sempre quello che volevate voi. Non è così? Beh, di solito. Inoltre io non vi viziai, e voi non eravate degli angeli in tutto e per tutto. Maria aveva un fondo di calma ostinazione e tu mancavi un poco di carattere, ma nel complesso eravate delle bambine molto buone. Qualche volta io tenevo il broncio e sarei stata contenta di vedere anche i miei allievi imbronciati perché allora avrei potuto capirli, ma non lo erano mai, poiché erano incapaci di sentirsi offesi, punti o mortificati. Non erano capaci di essere infelici in alcun modo, eccetto quando erano in una crisi di rabbia. Ebbene, non era colpa loro se non sentivano niente, non si può pretendere che la pietra si pieghi come l'argilla. No. Ma è spiacevole lo stesso vivere con delle creature così insensibili e incomprensibili. Non si possono amare, e se si riesce ad amarli è amore gettato via. Non possono né ricambiarlo, né apprezzarlo, né comprenderlo, ma comunque, anche se dovessi capitare in un'altra famiglia come quella, cosa molto improbabile, avrei per guida tutta l'esperienza passata e questa volta me la caverei meglio. E la conclusione, lo scopo di questa chiacchierata è, oh, lasciami provare di nuovo. Bene, ragazza mia, mi accorgo che non ti scoraggi facilmente, ne sono contenta, ma però ti dirò che sei un bel po' più pallida e più magra di quando lasciasti la casa la prima volta. E per amor del denaro non devi rovinarti la salute, sia per te che per gli altri. Anche Maria dice che sono cambiata e non mi sorprende perché mi sentivo tutto il santo giorno in uno stato di agitazione e di ansia. Ma ma la prossima volta sono decisa a prendere le cose freddamente. Dopo qualche altra discussione, mia madre mi promise di aiutarmi ancora una volta, purché avessi calma e pazienza, e lasciai che esponesse la questione a mio padre, quando e come credesse più opportuno, confidando nella sua abilità per ottenere il consenso. Intanto leggevo con qualche interesse gli avvisi sulle colonne del giornale e scrivevo risposte a tutte le richieste di una governante, ma tutte le mie lettere e le relative risposte, quando le ricevevo, erano immancabilmente mostrate a mia madre ed essa, con mio dolore, mi faceva rifiutare le offerte una dopo l'altra. Questa era gente di classe inferiore, altri erano troppo esigenti, altri ancora troppo tirchi nel compenso. Le tue capacità, Agnes, non sono quelle che si trovano comunemente nella figlia di un povero pastore, diceva, e non le devi gettar via. Ricordati che mi hai promesso di avere pazienza. Non c'è bisogno di aver fretta, hai tanto tempo davanti e ti si presenteranno ancora molte occasioni. Finalmente mi consigliò di mettere un avviso sul giornale esponendo le mie doti. La conoscenza della musica, del canto, del disegno, del francese, del latino e del tedesco, mi diceva, non si trovano in tutti. Molti saranno contenti di trovare tante conoscenze in una sola insegnante e questa volta potrai forse tentare la sorte in una famiglia di rango un poco più alto, nella famiglia di un gentiluomo di nascita, perché è più probabile che ti tratti con la dovuta stima e considerazione quella classe di persone che non dei commercianti arricchiti e dei villani rifatti. Ho conosciuto dei signori della più alta nobiltà che trattavano la loro governante come una persona di famiglia, benché alcuni, ammetto, sono insolenti ed esigenti come qualunque altro, perché, sai, in ogni classe ci sono i buoni e i cattivi. L'avviso fu subito scritto e spedito. Delle due famiglie che risposero, soltanto una accettò di darmi 50 sterline, la somma che mia madre mi aveva imposto di chiedere. Io esitavo a impegnarmi perché i figlioli erano troppo grandi. E i genitori si sarebbero aspettati una persona più appariscente o più pratica, se non più istruita di me. Ma mia madre mi distolse dai miei timori. Me la sarei cavata benone, disse, se soltanto avessi messo da parte la timidezza e avuto un poco più di fiducia in me stessa. Dovevo solo fare un esposto chiaro e preciso delle mie qualità e conoscenze, fissare i patti e poi aspettare il risultato. La sola condizione che ebbi il coraggio di avanzare fu che mi concedessero durante l'anno 2 mesi di vacanza per visitare i miei parenti in estate e a Natale. La signora sconosciuta, nella risposta, non fece a questo nessuna opposizione e affermò che, quanto alle mie conoscenze, non aveva nessun dubbio che ero in grado di soddisfarla, ma nell'assumere una governante, questo aveva per lei un'importanza secondaria, poiché, abitando nelle vicinanze di un certo luogo, poteva procurarsi maestri che supplissero a qualsiasi deficienza in questione. Per lei una moralità perfetta, un carattere e una natura compiacente erano i requisiti più necessari. A mia madre questo non andò a genio e mi fece molte opposizioni, nelle quali la sosteneva caldamente mia sorella, ma non disposta a essere nuovamente contrariata, vinsi ogni resistenza. E ottenuto prima di tutto il permesso di mio padre, che era già stato messo qualche tempo prima al corrente del progetto, scrissi alla mia corrispondente sconosciuta una bella lettera e finalmente l'affare fu concluso. Fu deciso che sarei entrata l'ultimo giorno di gennaio nelle mie nuove funzioni di governante nella famiglia del signor Murray di Horton Lodge, a circa 70 miglia dal nostro villaggio. Una distanza formidabile per me, che in tutti i 20 anni della mia esistenza non mi ero allontanata da casa più di 20 miglia. E inoltre tutte le persone di quella famiglia e dei paraggi erano completamente sconosciute a me e ai miei conoscenti. Questo serviva tuttavia a rendere la cosa più eccitante per me. Provavo una piacevole curiosità all'idea di andare in luoghi nuovi e farmi strada fra gente estranea. Mi lusingava di andare a vedere un po' di mondo. La residenza del signor Murray era vicina a una grande città e non in un distretto industriale dove la gente non pensa che a far denaro. Da quel che potei appurare, apparteneva a una classe superiore a quella del signor Bloomfield. Era senza dubbio di quella vera nobiltà di cui parlava mia madre, che trattavano la loro governante con la considerazione dovuta a una signorina rispettabile e ben educata, educatrice e guida dei loro figli, e non come una persona che era solo un gradino più su di una domestica. E poiché i miei allievi erano più grandi, sarebbero stati più ragionevoli, più docili, e meno turbolenti dei miei ultimi. Sarebbero stati meno sacrificati nella sala studio e non avrebbero avuto bisogno di assistenza e sorveglianza continua. E in ultimo le mie speranze si mescolavano a visioni luminose con le quali le cure ai ragazzi e i semplici doveri di una governante avevano poco o nulla a che vedere. Così la lettrice capirà che non avevo alcun diritto di essere considerata come una martire della pietà filiale, pronta a sacrificare pace e libertà pur di confortare e sostenere i miei genitori, benché certamente il benessere di mio padre e il futuro sostentamento di mia madre tenessero una gran parte nei miei calcoli. 50 sterline non mi apparivano una somma trascurabile. Mi servivano, è vero, degli abiti adatti alla mia mansione e dovevo pagare i miei 4 viaggi l'anno tra Horton Lodge e casa mia, ma con una stretta economia certamente mi sarebbero bastate 20 sterline o poco più per quelle spese, e così per la banca di risparmio me ne sarebbero rimaste 30 o poco meno. Un'aggiunta non indifferente al nostro gruzzolo. Oh, dovevo far di tutto per conservarmi quel posto, comunque fosse, sia per salire in stima presso i miei cari che per i vantaggi che avrebbero avuto se fossi rimasta. Capitolo 7. Horton Lodge. Il 31 gennaio fu una giornata terribilmente burrascosa. Soffiava un forte vento del nord e la neve a raffiche turbinava nell'aria e si accumulava sul terreno. I miei familiari volevano che rimandassi la partenza, ma temendo di fare con questa mancanza di puntualità una cattiva impressione ai miei padroni, proprio al principio del mio impegno volli a ogni costo essere puntuale. Non abuserò della pazienza delle mie lettrici e dei miei lettori col racconto della mia partenza in quella triste mattina invernale, dei teneri addii, del lunghissimo viaggio fino a Horton Lodge, delle attese solitarie nelle osterie per prendere carrozze e treni, perché c'era già qualche tratto di ferrovia, e finalmente dell'incontro a Horton Lodge con un domestico del signor Murray che era stato mandato con la vettura a prendermi per portarmi alla villa. Mi limiterò a dire che l'abbondante nevicata aveva formato tali ostacoli sulla strada per i cavalli e per le locomotive che era già buio da qualche ora quando giunsi al termine del mio viaggio e che alla fine si abbatté una furiosa tempesta tale da rendere le poche miglia un tragitto lungo e spaventoso. Io sedevo rassegnata mentre la neve fredda e tagliente mi passava attraverso il velo e ricopriva i vestiti senza veder nulla e chiedendomi come potevano trovare la strada quegli infelici del cavallo e del vetturino, e in realtà era un avanzare lento e faticoso. Finalmente ci fermammo e al richiamo del vetturino qualcuno aprì e fece girare sui gangheri scricchiolanti quello che doveva essere il cancello del parco. Allora avanzammo su una strada meno accidentata dalla quale ogni tanto scorgevo una gigantesca massa bianca che si staccava dall'oscurità e che immaginavo fosse un qualche albero ricoperto di neve. Dopo un tempo abbastanza lungo ci fermammo di nuovo dinanzi al portico maestoso di una grande casa, le cui vaste finestre scendevano fino a terra. Mi alzai con qualche difficoltà da sotto il cumulo di neve e scesi dalla carrozza, aspettando che un'accoglienza gentile e ospitale mi compensasse delle fatiche e delle tribolazioni della giornata. Un signore vestito di nero aprì la porta e mi fece entrare in un ingresso spazioso, illuminato da una lampada sospesa al soffitto che spandeva una luce ambrata. Poi mi accompagnò attraverso un corridoio e aprì la porta di una stanza interna, dicendomi che era la sala studio. Entrai e trovai due signorine e due giovinetti, i miei futuri allievi, certamente. Dopo un saluto cerimonioso, la maggiore delle ragazze, che era occupata con un pezzo di tela e un cestino di lane tedesche, mi chiese se desideravo andare di sopra. Naturalmente risposi di sì. «Matilde, prendi una candela e indicale la sua camera», ella disse. La signorina Matilde, una ragazzona tarchiata sui 14 anni con una giubba corta e i pantaloni, alzò le spalle e fece una breve smorfia. Prese però una candela e mi precedette su per le scale, due rampe alte e ripide, e per un corridoio lungo e stretto mi condusse in una camera piccola ma abbastanza comoda. Mi chiese poi se prendevo tè o caffè. Stavo per rispondere nulla, ma ricordando che non avevo mangiato niente dalle 7 della mattina e sentendomi logicamente debole, dissi che avrei presa una tazza di tè. Dicendo che avrebbe avvertito Bruna, la signorina se ne andò. Mentre mi toglievo il mantello pesante e umido, lo scialle, il cappello, eccetera, Una ragazza dall'aria affettata venne a dirmi che le signorine desideravano sapere se il tè lo prendevo in camera mia o nella sala studio. Col pretesto che ero stanca, scelsi di prenderlo dove mi trovavo. Uscii e poco dopo ritornò con un piccolo vassoio da tè e lo pose sul cassettone che serviva da toeletta. Dopo averla ringraziata, le chiesi a che ora desideravano che mi alzassi alla mattina. «Le signorine e i signorini prendono la colazione alle 8:30», disse. «Si alzano presto, ma siccome raramente fanno lezione prima della colazione, penso sia bene che si alzi appena suonate le 7». La pregai di essere così gentile di chiamarmi a quell'ora ed ella si ritirò promettendomi che avrebbe eseguito l'ordine. Allora ruppi il prolungato digiuno con una tazza di tè, una fettina di pane e burro e sedetti accanto ai pochi tizzoni accesi dove mi abbandonai a uno sfogo di pianto. Recitai le preghiere e poi, sentendomi molto sollevata, cominciai a prepararmi per andare a letto. Vedendo che nessuno dei miei bagagli era stato portato di sopra, mi misi a cercare il campanello, ma non trovai alcuna traccia di questa comodità in alcun angolo della camera. E così presi la candela e mi avventurai per il lungo corridoio e giù per la scala in un viaggio di scoperta. Incontrai sui miei passi una donna ben vestita e le dissi quel che desideravo, ma non senza notevole esitazione, poiché non ero certa se fosse una cameriera o la signora Murray. Caso volle che fosse la cameriera della signora. Con l'aria di chi concede un favore insolito, mi assicurò che si sarebbe occupata di mandarmi su le mie cose. E dopo aver atteso molto, temendo fortemente che si fosse dimenticato o avesse trascurato la promessa, incerta se aspettare o andare a letto o scendere di nuovo, le mie speranze finalmente rinacquero a un suono di voci e di risa accompagnate da uno scalpiccio di passi lungo il corridoio. Subito i bagagli furono trasportati dentro da una domestica dall'aria rozza e da un uomo, né l'una né l'altro molto rispettosi nei miei riguardi. Chiusa la porta dietro i loro passi e aperte alcune delle mie valigie, mi misi a letto abbastanza serena, stanca com'ero di corpo e di spirito. Mi svegliai la mattina dopo con uno strano abbandono, ma questo era misto al senso di novità per quella mia situazione e di curiosità senza gioia delle cose che mi erano ancora ignote. Mi sentivo come una persona trasportata via per incantesimo e caduta improvvisamente dalle nuvole in una terra remota e sconosciuta, assolutamente isolata da tutto ciò che avevo visto e conosciuto prima, o per meglio dire, un seme soffiato dal vento in un cantuccio remoto di un suolo ingrato, dove doveva rimanere qualche tempo prima che potesse mettere radici e germinare, assorbendo nutrimento da elementi che parevano estranei alla sua natura, seppure vi fosse riuscito. Ma questo non può dare l'idea esatta dei miei sentimenti, e solo colui che ha condotto una vita ritirata e senza allontanarsi dal suo paese, come me, sarà in grado di immaginarli, anche sapendo che cosa significhi lo svegliarsi la mattina e trovarsi nella Nuova Zelanda con un immenso oceano fra la propria persona e tutto il suo passato. Non è facile che dimentichi lo strano sentimento con cui aprii le imposte e guardai fuori su un mondo sconosciuto. Una grande distesa bianca fu tutto quello che incontrò il mio sguardo. Una immensità di spazi sepolti dalla neve e di boschi piegati dal peso. Discesi nella sala studio senza nessun desiderio speciale di raggiungere i miei allievi, sebbene non senza un poco di curiosità per quello che una miglior conoscenza mi avrebbe rivelato. Tra l'altro decisi su una questione molto importante, dovevo incominciare a dar loro dei signorini e delle signorine. Questa era, mi sembrava, un'etichetta illogica fra i ragazzi di una famiglia e la loro governante e compagna quotidiana, specialmente dove i primi erano nella prima infanzia come a Wellwood House, ma anche là chiamare i Bloomfield più piccoli col loro semplice nome era stata considerata una libertà offensiva, come avevano avuto cura di mostrarmi i loro genitori che li chiamavano loro stessi signorino e signorina Bloomfield quando ne parlavano con me. Non ero stata molto sollecita ad accettare il suggerimento, tanto la cosa mi pareva assurda. Questa volta però mi proposi di essere più prudente e cominciai immediatamente con tutta la formalità e cerimoniosità desiderate. E veramente, poiché i ragazzi erano molto più grandi, sarebbe stato meno difficile. Nonostante quelle parolette di signorina e signorino mi facessero l'effetto di reprimere ogni familiarità e sopprimere tutta la cordialità che potesse stabilirsi tra noi. Siccome non posso trovare il modo nel mio caso di farmi perdonare dalla lettrice tutta la mia noia, non l'affliggerò con il racconto particolareggiato di tutto quello che scoprii e feci quel giorno e il giorno seguente. Certamente ella si sentirà più che soddisfatta dal rapido profilo dei diversi membri della famiglia e dal racconto per sommi capi dei 2 anni che dal mio arrivo trascorsi fra loro.